A Mario, te conviene rifiutare. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera. E questo dice il popolo di Roma. La Zanzara. Sei ancora a casa, Simo? Ma che ce frega, ma che ci importa, se lo star vino ci ha messo l'acqua. E noi è Dimo, e noi è Famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo. Ma noi cosa importa che la differenza sia dall'1% della Germania al 6% nostro? Quello che ci importa è che i nostri tassi, certo, quelli che dobbiamo pagare per avere investimenti nel nostro debito pubblico, sono aumentati del 2%. Tutto quello che si è inventato sullo spread è un vero imbroglio. Quindi, secondo lei, è che si è usato lo spread per cercare di abbattere una maggioranza votata dagli italiani e di mandare a casa un governo facendogli perdere la maggioranza in Parlamento. Quindi Tamo bagadente bagamo più. Che ci rifrega, che ci rimporta, se lo star vino ci ha messo l'acqua. E noi è Dimo, e noi è Famo. Per quanto riguarda poi lo spread, ma smettiamola di parlare di questo imbroglio. Di spread non si era mai sentito parlare, se ne è sentito parlare soltanto da un anno. E che cosa ci importa di quando gli interessi che il nostro debito pubblico paga a chi investe nei nostri titoli rispetto a quello che pagano gli investitori che investono nel debito pubblico tedesco? Non so come baccala, la società dei magnaccioni, la società. Hai sentito, hai sentito, David, questa mattina Berlusconi da Belpietro. Attento, attento, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Quasi in contemporanea Monti se ne usciva con una battuta, devo dire, strepitosa, eh. Mio nipote a Roma lo chiamano spread. Posso rivelarle un piccolo aneddoto che mi ha raccontato mia figlia ieri sera. Il più piccolo dei suoi tre figli ieri mattina era a casa nel pomeriggio e ha visto in un telegiornale che si parlava di spread e ha detto alla mamma, ma spread sono io, perché all'asilo lo chiamano spread. Tanto questo è entrato nel linguaggio quotidiano. Non so per quale ragione poi questi bambini abbiano proprio individuato in lui quello che doveva portare questo soprannome. Questo, le colpe dei nonni ricadono sui nipoti. Che ci frega. In campagna elettorale Mario Monti potrebbe tirare fuori delle qualità non conosciute se mai si candiderà. Parenzo, dove sei? Scusa, non ho capito bene. No, sono qua in mezzo al traffico, bloccato, acqua che è entrata dal tetto di casa, una roba incredibile. Comunque, andiamo avanti, la perché gente, abbiamo poco tempo la gente stasera, se poco ne può, tempo. La gente se ne può anche fregare delle devo chiudere tra un po', potere. Poco tempo sì, stasera, sì, poco sicuramente tempo. Puoi chiudere. Facciamo senti Bersani, che ovviamente ha una FIFA nera della possibile, blu si dice anzi, della possibile sì, candidatura blu. Di Monti, è una FIFA blu, una FIFA blu. Bersani, Monti deve rimanere fuori dalla contesa, invece pare, da indiscrezioni, che tra giovedì e venerdì prenderà una decisione molto molto diversa. Sentiamo. Io ho sempre detto, non ho ragione per cambiare opinione, che proprio perché Monti deve essere ancora utile a questo paese, sarebbe meglio rimanesse fuori dalla contesa. Montezemolo lo paragona a Occhetto, sempre Bersani, eh? Montezemolo, il gioco si fa duro, eh? Montezemolo fondamentale di coprire lo spazio politico, vabbè, le solite cose. Poi dice Bersani, beh, sentite. Credo che sia fondamentale coprire un spazio politico riformista, popolare, democratico, liberale, di cultura europea, per evitare che paradossalmente si possa rischiare di avere l'Italia come era nel 94, dove al posto di Occhetto, con tutto rispetto delle persone, c'è l'onorevole Bersani, ma all'insegna che tutto cambi perché niente cambia. E poi la frase del giorno, Brunetta, per pagare l'IMU devo chiedere i soldi in banca, clamoroso. La domanda è questa, aspetta, la domanda è questa. È davvero disperato alla canna del gas oppure ha troppe case? Io le posso dare una notizia, sto pagando la seconda rata del IMU, i soldi non li ho, li ho dovuti richiedere a prestito in banca per la seconda, e come me penso che sono un medio reddito, un medio alto reddito, la stragrande maggioranza delle famiglie italiane. Monti, certo, su questo ha sbagliato e su questo la pagheremo cara in termini di crisi, in termini di caduta dei consumi. Vabbè dai, però non si può esagerare in questo modo, dai, su, va bene, lì uno può, uno può fare, ma si direbbe hanno la faccia come, non mi viene, no, la ma parola. Lasciamo perdere le considerazioni sull'IMU, giusto, sbagliato, si paga troppo, si paga, no, non è questo il punto, però adesso che Brunetta non abbia i soldi per pagare l'IMU, o hai 150 case, oppure se hai una seconda casa, anche la prima casa, i soldi Brunetta, no, ce li dovrebbe avere, ne, no? ne ha più, come dimostrava un'inchiesta dell'Espresso, una bella inchiesta di qualche tempo fa, sì. Lui ha molto, no, ma non è mica un reato, va benissimo, però non credo che non abbia i soldi, oppure sì, perché magari vive al limite del suo reddito, non lo so, ma insomma adesso. Ha molte case, ma non posso non piangere quando ti posso fare a meno di, non riesco a piangere, e infine aspetta, me la metto. Aspetta, infine Grillo numero uno assoluto, non rompetemi coglioni, dice proprio così sulla questione della democrazia, dice così, eh? Non abbiamo speso un euro, tutto a costo zero, e chi dice che non c'è stata democrazia perché i voti sono stati pochi, io faccio una domanda: di 1000 parlamentari oggi in Parlamento, quanti voti hanno preso ognuno di questi? Chi ha deciso di quella gente lì? 5 segretari di partito. Non venite a rompermi i coglioni a me sulla democrazia. Ma che ce frega, ma che ci importa? Chi accusa me e Casaleggio vada fuori dalle palle. Poi dice, i dissidenti ovviamente gli rispondono, sei come Mussolini. Ma i dissidenti non lo sapevano com'era Grillo prima? Non lo sapevano? Adesso che fanno? Protestano? Ridicoli. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Grande ritorno qui per Augusto Minzolini. Buonasera. Ciao. Ciao Augusto, come stai? Abbastanza bene, un po' complicata, ma sto bene, perché sto, diciamo, in giro. Comunque cerco di seguirti, dimmi. Allora, no, a fare le compere di Natale, direttore, le compere, no, di Natale. No, c'ho un po' di cose da fare. Scusami un attimo, Augusto, ma sei contento del ritorno di Berlusconi in prima linea, che si ricandidi? Tu personalmente sei contento, sì o no? Ma secondo me sì, per nel senso, io credo che sia giusto che una persona si sente di dare ancora qualcosa al paese, lo fa. Yeah, a me quello che un po' mi lascia perplesso, sai, un'altra cosa. Cosa? Lo voterai? Fammi finire, sì. la cosa che mi lascia perplesso, è quello che più mi colpisce, è invece tutto questo che è avvenuto, diciamo, sui giornali stranieri, sì, che hanno criticato questo tipo di scelta, sì. Quasi, cioè, qui addirittura non è che si sta criticando la candidatura, che per caso viene eletto o meno, ma addirittura se una persona decide di candidarsi, sì. Io non ho mai visto nessun paese, diciamo, trattato in questa maniera. Ma questo perché secondo te? È la cosa che più mi colpisce. Ma perché secondo te? Perché? Ma perché di fatto è così, cioè ormai siamo, diciamo, trattati come un paese emarginato. Beh, non è che trattano l'Italia, dicono che Berlusconi sarebbe, come dire, più o meno, adesso poi ci sono varie reazioni, alcuni giornali e politici europei. Quello è Liberation che dice la mummia, però insomma una parte dell'establishment europeo pensa che il ritorno di Berlusconi sia un pericolo. Ecco, tu questo qua come lo vedi? Da questo punto di vista, vedi, se devo risponderti così, ma anche perché non è che sono mai stato un nazionalista, però c'è un moto, diciamo, rispetto a questo atteggiamento, anche perché potrei dire, diciamo, di tanti governanti europei esattamente la stessa cosa. Però allora sono contento che Berlusconi si ricandidi, ma soprattutto per questo, perché sì, mi sembra che noi qualunque cosa che facciamo dobbiamo chiedere agli altri, quasi che fossimo l'ultima ruota del carro. Cioè proprio queste reazioni? A me questo atteggiamento assolutamente, sì, di trattarci come se fossimo veramente gli ultimi mi dà fastidio, anche perché poi se andiamo in Europa, dopo la Germania e la Francia, ma tu lo voterai? Alla Grecia, ti faccio ad esempio, sì. Siamo noi, per cui non è che siamo così da essere trattati come se fossimo veramente gente. Scusa un attimo, Augusto, ma prima Parenzo ti chiedeva, ma tu lo voterai Berlusconi? Beh, ci penso, sì. Adesso non mi chiedere queste cose. E come non te le chiedo così, tanto bisogna essere trasparenti anche qui. Io sono trasparentissimo, ti dico una cosa, sì. Io voterò soprattutto sul tipo di proposte che mi verranno fatte, ho capito. Che mi saranno, diciamo, sì, presentate, perché io credo che in questo momento, al di là, sì, dei nomi, al di là degli spacchettamenti, sì, al di là delle primarie, se c'è qualcosa che interessa agli italiani, che interessa davvero agli, sì, italiani, perché la situazione di crisi porta a questo, sì, è vedere se i propri interessi sono rappresentati e difesi. Che dici, Parenzo? Non ho capito. Intanto, no, intanto voglio chiedere. Sembra che sia ufficiale. Intanto, una cosa che per me è incredibile, forse per una questione di ascolti, non so, ma è lo spostamento. Verrà deciso forse la settimana prossima del Festival di Sanremo, causa elezioni. È una cosa pazzesca. Se ci io pensate, voglio bene, forse lo fanno. Forse lo fanno per gli ascolti, perché forse bisogna concentrarsi sulla campagna elettorale. Ma sembra una cosa incredibile. Dopo l'uscita della Littizietta, adesso sulla Littizietta volevo chiedere una cosa a Minzolini, ma se una cosa del genere l'avesse fatta Minzolini, a parte avete ruoli diversi, cosa sarebbe accaduto, Augusto? Non so, guarda, non oso immaginarlo. Guarda, io ti dico soltanto una cosa che mi fa sorridere, diciamo, in questi... Tu ti ricordi quando ero lì al TG1? Sì. Ogni giorno, se perdevo una volta sul TG5, si succedeva il finimondo. Sì. Io ho perso il primo anno una volta, succedeva il 98, il secondo anno 4 volte. Oggi sta accadendo spesso, sì. Oggi no, adesso, diciamo, viene, diciamo, credo il TG1 nell'ultimo anno ha perso 12 volte, l'ultima volta ieri. Sì. E non detto sui giornali nulla. Vabbè, hanno cambiato adesso il direttore. Hanno cambiato adesso il direttore. Vedremo. Vabbè, quello che c'era prima. Dai, tu. Scusa, no, ma Augusto, la Littizietto. Scusa, se tu ti avrebbero crocifisso, vabbè, sono ruoli diversi. Crocifisso, solo crocifisso, ma anche peggio, probabilmente. Forse sarei stato squartato sulla pubblica piazza. Come si nel però quella dicono che è satira, no? Dire insomma, Berlusconi ci ha anche rotto il C, è satira o no? Ma io quasi diventa a fare pure io, diciamo, il potresti dire Bersani. Cambio mestiere, perché a questo punto, nel momento in cui io mi vesti in una certa maniera, posso dire la qualunque, allora pensaci, che ne sai, pensaci. Pure a fare un po' di satira e a dire mi ha rotto i coglioni al Littizietto. Ma non è satira, però, quella della Littizietto, allora è militanza, dici tu. No, ma io non sono militante, io credo che sia paradossale. La Littizietto, dico. Ma sì, credo che sia paradossale, diciamo, perché anche far ridere una cosa del genere, boh, a me no. Non fa ridere neanche se per caso fossi a dire al Littizietto mi hai rotto i coglioni, cioè, non trovo la battuta che ti Davide, che vuoi dire? Ridere. No, voglio dire a Minzolini, che tra l'altro abbraccio fortissimo, ma io voglio dire questo, è più facile no, se Berlusconi torna presidente del Consiglio, io voglio Minzolini al TG1 di nuovo. Ma ancora con questa storia? Ma ormai è finita, ormai è finita. Su, ma scusa, la causa, allora, la causa a che punto è, Augusto? Giro la domanda, giro i tempi italiani, vediamo. È più facile che Berlusconi torni a guidare il paese o che Minzolini torni a guidare un telegiornale? Questa è buona. Ma io, guarda, penso, diciamo, ecco, come ti dicevo, se vado a vedere i risultati, penso, diciamo, lo meriteresti, insomma. Tu vai a vedere che, tanto che parliamo sempre di dati, perché tu hai detto il governo Monti non si parla di dati, non si parla neanche del telegiornale. Il TG1, da quando mi sono andato, ha perso 2,5 punti, circa 400. Si stava meglio quando si stava peggio. Ma dico, non so, probabilmente rischia, diciamo, di essere sicuro questo tipo di, sai, come di valutazione. Come diceva una volta Ridati Certussone. Che ci frega. E siamo qui alle 18:48, la Zanzara, 800240024, con Davide Parenzi in collegamento da Roma con i problemi a casa sua e con Augusto Minzolini che è in giro per affari suoi. Allora, a fare le compere di Natale. No, non l'ha detto, perché devi attribuire cose false a Minzolini. Faccio un po' di disinformazione. Ma fa sempre così. Allora, ma Orfeo è in quota Casini? Augusto, Orfeo è in quota Casini? Ma questo lo devi chiedere altri, io non ho fatto trattative di questa natura. No, lo chiedo a te, così. No, se vuoi che ne sappia. Senti, ma è vero che la Maggioni è stata fatta fuori perché ti ha appoggiato? Ma guarda, a me mi sembra molto assurdo, diciamo, che si parli ancora di quel documento. Quello fu un documento, ti posso dire, adesso lo posso dire a una distanza che io proprio non ne sapevo nulla, e fu fatto perché la redazione si era stufata del fatto che il comitato di redazione, il problema era il comitato di redazione. Ma non voglio ricapitolare la vicenda, volevo sapere se questa cosa qui è, secondo te, l'origine della bocciatura della Maggioni? Ti posso dire, non credo che il motivo sia questo. Se è stato fatto per questo, siamo al cretinismo puro. No, beh sì, cioè, quello non c'è dubbio, ma può succedere anche questo, lo sai, no? Allora, io facciamo così, penso che non sia così, perché spero che non ci sia persone che abbiano, diciamo, un cretinismo puro e che possano prendere decisioni del genere. Ma hai sentito la Boccassini sulle elezioni? Berlusconi che vuole assolutamente evitare una sentenza prima del voto? Che significa tutto questo? Ma che insomma, guarda, c'è qui qualunque cosa, ce la buttano su argomenti di questo tipo. Io so soltanto, diciamo, che mi sembra paradossale, leggendo, che su un processo che si basa sul fatto che una persona sarebbe andata con un'altra, tu non senti la persona che sarebbe stato oggetto di questa attenzione. Quella non si fa trovare, è sparita. Vabbè, ho capito, ma viene da ridere, però, no? Dai, puoi fare un processo del genere senza sapere che quella dica sì, ci sono stato o non ci sono stato. Ma a me viene da ridere, sul serio, guarda. Ma vai a Mediaset alla fine o no? Vai a Mediaset o no alla fine? Ma che ne so, guarda, io posso stare appresso a tutto quello che dicono. No, ma ho capito, ma si è parlato a lungo di questa cosa. Vorrei continuano a parlarne, io non ne so niente, questo è il punto. Ma che guadagni troppo, costi troppo, questa è la realtà. Costi troppo. Lì stanno tanto. Tagliando, gli... come neanche tanto, guadagni 500, mezzo milione di euro l'anno, come no? Ho capito, ma mica ho detto che stai rubando. No, sono d'accordo con te, probabilmente ci sono, diciamo... Costi troppo. Casi diversi. Comunque, ti ho detto... Costi troppo, diciamola tutta. Per Mediaset in questo momento costi troppo. Costo, lui devi dire una, devi rispondere. Minzolini, scusami se ma ti faccio che da risponde come vuole lui. No, da aiuto, lo Parenzo, aiuto questa sì, volta. Devi rispondere. Aiutare, vedi come risponderebbe Parenzo al posto di Minzolini. No, Parenzo risponderebbe al posto di Minzolini citando il grande Joker di Batman che sì. Diceva se una cosa la fai far bene perché farla gratis. Ti volevo aiutare stavolta. Vabbè, comunque, ma lascia perdere, ma non è quello. È vero che costi troppo o no? Ma io ho detto, sai, quando si comincia una trattativa uno può anche ragionare su quello, è l'ultimo problema, cioè, molto spesso tu sai benissimo che in questo mestiere uno lo fa anche, diciamo, perché ha altre cose che lo ma ti piacerebbe, che ne so, fare il direttore del TG5, per esempio? Io ti faccio un esempio molto semplice. In altre situazioni che ti posso dire, nel 94 mi avevano chiesto di fare il vice direttore di Mentana, non ci sono andato, lì addirittura prendevo di più ad andarci, ma non ci sono andato lo stesso. Quindi, cioè, uno fa le sue valutazioni per il momento. Ma andresti oggi, a Mediaset magari per fare in futuro il direttore del CG5, lo faresti o no? No, sì. No, ma ci sta benissimo, sicuramente, che è un grande amico. No, vabbè, ma in futuro ho detto qua, vedremo, cioè, nel senso, il futuro, sai, io non parlo delle cose che non sono. Ma adesso ti annoi, adesso ti annoi un po' a fare quella cosa. Un po', cioè, un po' sì, rispetto a tutto quello che vedo in giro. Ti annoi, Anche perché poi ti ho detto, io poi vedo delle cose incredibili nell'informazione. No? Cioè? Noi parliamo tanto, cioè parliamo tanto, che ti posso dire, di Monti, che io stimo e tutto quello. Ma poi se io mi vado a vedere, tante volte, cioè, ti leggi i giornali e vai a vedere i risultati, no? Sì. E paragoni quelli di adesso con quelli di un anno fa. Ho capito, ma i risultati di adesso sono frutto anche di quello che è successo prima, eh? Non è che sono, allora, bisogna essere onesti. Io sono d'accordo con te, ma fino a un certo punto, perché se noi però cominciamo così, allora quelli che sono successi un anno fa sono quelli che sono successi. Ma sì, ma infatti tutto è frutto. Prima, 10 anni prima. Certo, anche questo. Anche questo, certo, anche questo. Il debito pubblico nasce quando c'era il famoso Cirino Pomicino, presidente della commissione bilancio, e c'era Monti. Che faceva lì il consulente proprio sul debito pubblico. No, ma questo è vero. Senti, ti chiedo una cosa. Cioè, io faccio un paragone, Parenzo, però guarda, ogni tanto bisogna fare pure delle domande, insomma, un po' perfide. Allora, mezzo milione, Minzolini più o meno 550 milioni. Ah, vabbè, ma vedi, continua a parlare di questa aspetta, cosa. Aspetta, la Gabbanelli 150. Secondo te, no. Non ti sei, sì, la Gabbanelli 150, ma perché? Ma non credo che siano 150. 150, come no? Ma 150, ma non ti senti un po' a disagio per questo? No, non te ne frega niente. Parli di me? Ognuno fa la sua trattativa. Ma io posso dirti una cosa, io sono arrivato là per fare determinate cose. L'azienda ha scelto di farmi fare delle altre cose. Questo non è colpa mia, io potrei fare altre cose tranquillamente. Chiaro che però non è più per le vicende, diciamo, per dei ruoli editoriali. Ma Banelli dovrebbe guadagnare di più. O no? Ma posso dirti una cosa, io su questo sono d'accordo con te. È anche vero, però, che io venivo da fuori, cioè, nel senso, tu sai come viene fatto il mercato. Sì, no, certo, certo. Non è che ti dico vabbè, insomma, quante possibilità ci sono che vai a Mediaset? Se tu vai di là, vai da qualunque altra parte, probabilmente non c'era una trattativa, e chi ci sta probabilmente prenderà meno di te per questo motivo. Cioè, vuol dire che non c'è meno mercato. Se la Gabbanelli andasse da un'altra parte, probabilmente qualcuno gli farebbe una proposta, diciamo, più alta, no? È normale. Ci sembra, se vogliamo parlare tanto del libero mercato, questo mi sembra una cosa più. Senti, ma insomma, quante possibilità ci sono che tu vai a Mediaset oggi? Ma io finora non ho nessuna proposta, per cui ragiono su niente. Vabbè, ma la tua casa è il servizio pubblico, con quelle cifre, amico mio, ma chi te muove? Ma no, ma io non sono così quasi, ti ho spiegato. Ma ti sei pentito di non essere andato a New York, per esempio? Devo dirti no, per un motivo molto semplice, visto che parliamo di servizio pubblico. Che già c'eri stato. Quando mi hanno fatto la proposta, l'idea era quella di riportare tutte le redazioni della RAI all'interno dell'Associated Press. Sì. Per cui di fatto veniva meno proprio l'immagine RAI all'estero. Nel ruolo che ho in questo momento, cioè di responsabile del direttore degli uffici, noi abbiamo evitato questo e adesso stiamo rimettendo in piedi. Vabbè, un'ultima cosa devo chiudere, ma Berlusconi non dovrebbe fare tabula rasa di tutti i colonnelli della classe dirigente fino adesso, secondo te? Io credo che ci debba essere un grande rinnovamento. Grande, una bella tabula rasa di tutti i colonnelli. Ma sai, non c'è, sai, questi discorsi così tabula rasa, devi rinnovare. Cioè nel senso, ma tu ti potresti candidare, Augusto, ti potresti candidare tu? Ma no, mi piace troppo questo mestiere. Vabbè, non ti piacerebbe essere in Parlamento? Ma che c'è detto, mi piace talmente questo mestiere. Non ti candideresti mai? Un'altra cosa. Non, nel senso non. Ma te l'ha chiesto Berlusconi, no? Te l'ha chiesto Berlusconi? Ma no, non me l'ha chiesto, ma ha detto questo, capito? Non è. Io almeno, cioè, nel senso, sono innamorato del mestiere che faccio. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. È ancora qua, Simo. E siamo ancora qui, la zanzara 800240024, mentre Ruby ruba cuori, non so se avete sentito questa notizia, dice: sono in Messico, torno a gennaio, Parenzo, sono in Messico. Com'era quella canzone che faceva? Vado al Messico, vado a gonfie me. No, ma il problema è questo, che lei è in Messico sicuro. Qualcuno... Tu dici su un mandato di Ghedini, dici? No. Non dire cose gravi, Qualcuno, sì. Ma non sono certo io, potrebbe chiedersi chi ha pagato, ma non sono io. Sì. Chi ha pagato il biglietto per il Messico alla signora Ruby Rubacuori proprio in concomitanza? Ma stai facendo delle accuse veramente molto gravi, molto gravi. Ho detto, qualcuno potrebbe chiedersi, ma non io, qualcuno potrebbe chiedersi, sì. E mi domando perché ancora qualcuno non se lo sia chiesto, . Ma qualcuno, ma non sono io, sì. Potrebbe chiedersi, chi ci fa in Messico nei giorni della ripresa del processo la testimone voluta dalla difesa? Punto di domanda, perché c'è da ricordare, qui sono serio, che se un testimone dice il falso... Vabbè, adesso è penalmente perseguibile. Vabbè, mettiti il TG3, quando attacchi con le leggi, metto il TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Monti, gli italiani non sono sprovveduti, basta col populismo, le ricette magiche, i governi precedenti hanno fatto ben poco per la crescita. Berlusconi, lo spread è un imbroglio, io l'unico a dire no alla Merkel, candideremo solo il 10% dei parlamentari, dice, poi si corregge. Alto là della Germania, Berlusconi no a campagne antitedesche, Merkel avanti con le riforme di Monti, lo spread frena. Fuori chi non è d'accordo, un grillo furioso contro i dissidenti del Movimento 5 Stelle accusati di creare divisioni interne. Confindustria ripresa più lontana solo nel 2014, l'incertezza del voto offusca l'orizzonte, squinzi, serve governo stabile. Napolitano interviene sullo stato della sanità italiana chiedendo che chi ha più reddito paghi di più, nel Lazio protesta contro i tagli. A 4 giorni dal contestato referendum sulla nuova Costituzione, l'opposizione laica e i sostenitori del presidente Morsi scendono in piazza. Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica. Si trova in Messico la signora Ruby Rubacuori e tornerà a gennaio. Però quello che sta agitando le acque in casa PDL, o quello che resta del PDL, o come si chiamerà, è la litigata, chiamiamola così per usare un termine soft, caro Parenzo, tra Alfano e Dell'Utri. Tra Alfano e Dell'Utri. Ha iniziato Dell'Utri dando un giudizio politico assolutamente negativo, molto duro, sulla segreteria Alfano, dicendo un poveretto, non ha avuto polso, leadership, eccetera eccetera, le cose sono andate male. Sentite Alfano ieri sera a Porta a Porta. Ma io credo che molti dei guai del nostro partito derivino anche da soggetti come Dell'Utri, che è un povero disgraziato per tutto quello che gli sta succedendo e che parla a ruota libera, privo di ogni senso di responsabilità, perché permette agli osservatori di credere che le parole di Dell'Utri siano il pensiero di Berlusconi. Questo nuoce al presidente Berlusconi. Il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Hai capito? Poi addirittura una replica di Dell'Utri a Fano. Ma non ho detto nulla di offensivo. Beh, insomma, povero disgraziato. Ma no, come dire, è un povero disgraziato che subisce. Ho capito, ma se te dicessero povero disgraziato, come la prenderesti, come un'offesa o come un complimento? Non ho capito. Io non ho detto che ha ragione Dell'Utri, ha ragione Fano. Se mi dicono povero disgraziato che ho le pezze al culo, dico vabbè, sono povero disgraziato. Ho capito, ma insomma, uno Alfano che dice a Dell'Utri tante disgrazie, anche tu hai avuto tante, sei un povero disgraziato. Ma io non sono affatto un povero disgraziato. Quando fai quella maratona che ti distruggi così, se per me senti sei la un Biancofiore, sì, questo è vero. Senti la Biancofiore. Però senti la Biancofiore, in Europa l'unico che sapeva come funzionava l'economia era Berlusconi. Chi lo può aver detto secondo White te? White Flower. Io ero fra i tre leader internazionali più autorevoli. Beh, vabbè, decisamente vabbè. La verità, perché oggettivamente sì, quando lui andava in Europa era l'unico che sapeva che cosa dire, diciamo, cioè sapeva che... come funzionava l'economia. Però sappiamo anche che no. L'unico che sapeva come funzionava l'economia, ormai la Biancofiore è un disco fisso, non dico rotto, ma un disco fisso che ripete sempre le stesse cose. Meglio Berlusconi che la Merkel, è laureata in astrofisica. In astrofisica. Io vorrei che soprattutto il pubblico e la gente sapesse in che cosa è laureata la signora Merkel. Qualcuno lo sa in che cosa è laureata la signora Merkel? La signora Merkel è laureata in astrofisica. Ora, la signora Merkel può dare lezioni di economia all'Europa, può essere il capo economico dell'Europa, o forse lo è più un imprenditore che nella sua vita ha costruito il lavoro per tutti, punto di domanda. Sì, sì, sì, mentre sa. Beh, hai capito? E se sei laureato in astrofisica, come la Merkel, non capisci nulla di economia. Hai capito, Parenzo? No, ma tu che non sei laureato in nulla. Sarebbe come dire... No, ma va benissimo, ma infatti non capisco nulla di nulla. Ma sarebbe come dire Marchionne, che è laureato in filosofia e non è un ingegnere. Non può fare l'amministratore delegato della FIA. Quindi io direi... Ma qualcuno l'ha detto, Qualcuno l'ha detto. Al netto di tutto, sì, ma questo è un argomento stupido per criticare Marchionne, certo, secondo me. Certo. Al netto di tutto, con rispetto per le autorità civili, politiche e militari, la Biancofiore qui ha detto una stronzata. Beh, però la frase... Dice il nano che parla. Ah, il nano che parla. Adesso c'è un altro, no, per carità, non volevo dire, un altro simile a Parenzo, Brunetta, che ecco, è la frase del giorno. È anche molto tratto, è molto poco di... Ma come, secondo te, come fa quando va in banca a chiedere i soldi? Come fa Brunetta? È una roba proprio molto poco di sinistra. Ma come fa Brunetta quando va in banca a chiedere i soldi? Uno di sinistra, guarda, tu non sei di sinistra. Oddio, come fa in banca? Come fa Brunetta quando va in banca a chiedere i soldi? Sono Renato Brunetta, subito il direttore. Un attimo, faccio la fila, prendo il numero. Nessun numero, veloci, e privatizzare. Guardi che la banca è già privata, scusi Brunetta. Non va bene, tornelli dappertutto. Scusi, però questa non è la funzione pubblica. È il direttore, parlare subito col direttore. IMU, subito IMU. Intorno a lei. Io le posso dare una notizia. Sto pagando la seconda rata del RIMU. I soldi non li ho, li ho dovuti richiedere a prestito in banca per la seconda. E come me penso che sono un medio reddito, un medio alto reddito, la stragrande maggioranza delle famiglie italiane. Monti, certo, su questo ha sbagliato e su questo la pagheremo cara in termini di crisi. Brunetta, di non hai i soldi per pagare l'IMU, ma la povera gente cosa dovrebbe dire, caro Brunetta? Cosa dovrebbe dire? Ma tu sai quante case aprono? Dai, io. Su, ma uno non lo deve dire, anche se fosse vero, non lo dovrebbe dire. Fosse vero, non lo dovrebbe dire. Cioè, uno può spendere un sacco di soldi e restare lì, no? Sull'orlo del default finanziario, cioè del rosso in banca. Default finanziario è una parola grossa. Del rosso in banca. Dunque, se devi pagare 10.000 euro di IMU perché c'hai quattro case, una no, a Ravello, ne ha e non so dove ce l'ha ste case? Ma ne aveva una a Venezia. Ma una volta l'ha detto pure. Andiamo a ritrovare un audio Roma, nel passato. Una l'aveva a Roma, detto. Una a Venezia, una a dove si è sposato lì in Liguria. Ha detto che l'IMU è una vergogna, eh? Come è stato impostato, come è stato le tasse che ci mettono sulla seconda e terza casa. È una vergogna totale, assoluta. Meglio la patrimoniale, questo lo dico io. Però Brunetta non si può permettere di dire queste cose, su. Ah, eccolo qua, ce l'ho il testo di quello che ha detto. Sono orgoglioso di essere figlio di gente povera, figlio della Venezia popolare. Mio padre era ambulante, io vendevo gondole di plastica nera sui marciapiedi di Cannaregio. Beh, questo che c'entra? No, questo è quello che ha detto lui con sulle case, aspetta. Dopo. Andrea De Vicenza, buonasera. Inutile, privatizzare. Andrea, dica. No, ma guarda, va privatizzata, inutile. Mi sente? Sì, dica. Ascolti, mi ha un po' stancato il discorso relativamente al rientro o meno di Berlusconi, sa perché? si continua a parlare. No, non ci siamo stancati per niente, sì, un po'. Ma perché si continua a dire Berlusconi torna, non torna, eccetera. Se torna, intanto torna per volontà degli italiani, sì, che eventualmente lo eleggeranno. Quindi io lo lascerei lavorare se torna. E poi si fa un bilancio alla fine, dopo i 5 anni di legislatura, eventualmente. Beh, guardi che è molto difficile che vinca, io lo dico subito. Però se succedesse, l'avverto così. E poi volevo dire un'altra cosa. In genere bisognerebbe guardare, secondo me, al tempo dei nostri antenati romani e pensare, dicevano panem e circenses. Sì. Non sarebbe utile applicarlo anche ora? Ma chi? Agli italiani in generale. Cioè? La linea politica dovrebbe essere quella di pensare che la gente è contenta quando ha la pancia piena e si diverte. Questa sarebbe la migliore linea politica da adottare. Beh, lei è un fine politologo, Parenzo. Non sarebbe giusto, secondo lei? Sì, pancia piena e poi che cosa? Pancia piena e circo. E circo. Pasquale da Napoli, va, passiamo a Napoli. Pasquale. Salve, Luciano, buonasera. Dica. Io non vorrei dire una cretinata per quanto riguarda l'IMU e di Brunetta, perché parlando con la mia commercialista mi aveva detto che l'IMU non si può pagare a rate. Quindi mi sembra strano come lui riesce a realizzare anche l'IMU. Quello ma che c'entra? È la seconda rata, è la seconda rata, su. Non so, però se non si può realizzare si paga in un'unica... Vabbè, Pasquale, su, andiamo avanti con questa storia. Della... Il problema è che la chiamata era un altro. Io insomma, preferirei che, essendo anche un elettore di centrodestra, che si parlasse di quello che si è ottenuto in questi anni con il governo Berlusconi. Ah, tantissimo si è ottenuto. Appunto, purtroppo non tantissimo. Si è ottenuto nulla, perché alla fine Berlusconi è stato attaccato più su quello che faceva nella vita privata. Che sì, per questo, pubblica. Solo per questo, secondo lei, non si è ottenuto nulla? No, non solo per questo, perché ha avuto vicino persone che non hanno aiutato per nulla. Lui invece non ha colpe. Lui invece non ha colpe. Per me la colpa principale è degli altri. È quello che è rientrato in campo, che a questo punto se ne poteva stare pure a casa sua. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore. Al Parlamento europeo, caro Parenzo, scoppia la rivolta contro Berlusconi. Il capogruppo del PDL, Mario Mauro, già ha detto che Berlusconi è inadeguato a guidare il paese, eccetera, eccetera, che se il PDL diventa un partito antieuropeo lui non ci sta. Adesso ti faccio ascoltare, vi faccio ascoltare, cari ascoltatori, una vocina che è quella di un parlamentare europeo del PDL che fa una battuta, sono pochi secondi, un parlamentare del PDL contro Berlusconi. Ma chi te l'ha mandato? I servizi? Parlamentare toscano del PDL contro Berlusconi, l'ho captata. L'hanno mandato i servizi? L'ho sgraffignata da qualche parte, tanto parte siamo specialisti in queste cose qua. Un parlamentare europeo del PDL, perché lì c'è la fronda contro Berlusconi, molti sono contrari a questa... chiamiamola deriva, anche se secondo me tutto è legittimo, anche fare una campagna elettorale contro la Germania è super legittimo, che ne dica la Merkel, che ne dicano le cancellerie europee, si può fare di tutto, non si capisce perché non si potrebbe fare una campagna elettorale contro la Germania, è inspiegabile. Comunque sentiamo. A forza di parlare alla pancia del paese ci troveremo col culo per terra, hai capito? Questo è un parlamentare europeo del PDL, parlamentare europeo del PDL, che dice: a forza di parlare alla pancia del paese ci troveremo col culo per terra. Eh beh. Non l'ho mica riconosciuto, sei della voce. Eh no, perché non è molto conosciuto, però è il sintomo, è la dimostrazione che c'è una fronda nel PDL in Europa. Pare che con Berlusconi siano solamente, e come mai, chiedetevi perché, la Ronzulli e la Matera. Licia Ronzulli e Barbara Matera. Due. Comunque, questo hai fatto bene a ricordarlo, le salutiamo. E come sono state elette? Coi voti, certo. E come? State elette coi voti, Berlusconi ha detto che dovevano essere votate. Ma questo voglio dire. Sto riferendo i fatti. No, una cosa che sta, ma è anche normale, a parte che comunque non è che è successo anche per altri, anche nel Partito Democratico, per tutti, cioè che c'è chi porta i voti al deputato X o Y, ma questa è una roba normale. Poi però materialmente ci devono essere le persone che scrivono il nome, non è che c'è uno con la non pistola. Non c'è dubbio. Questo. Però ecco le case di Brunetta. per capire. Dimmi, dimmi. No, per capire, perché è cretino. E che è un cretino che le hai pubblicate, è un cretino, disse Brunetta all'Espresso quando l'Espresso lo pubblicò. Quali sarebbero queste case, dimmi? Allora, Roma, le foto, casa di Roma. Sì. Ravello. Sì, questo Ravello. L'abbiamo già detto. Poi? Ravello. Venezia. Sì. E dicono un casale immerso nel verde in quel di Toti. Quindi, chiaramente... Cioè, siamo dunque a casa a Roma, questo giusto? Questo quanto apprendo dall'Espresso sì, dal Corriere. Tutto allora, da verificare. Roma, Venezia. Ravello, sì. Come diceva Mike, ti ricordi? Allora le parole sono Roma, Ravello, Venezia e Toti. Allora indoviniamo di chi sono queste quattro case. Inizia per B, amici della Zanzara, indoviniamo. Non lo fai male, buongiorno. Quanto però, sarà l'IMU, gira la ruota, su che indoviniamo quanto sarà l'IMU dell'ex ministro. Questo ce lo deve dire lui, però. Pare che abbia chiesto un prestito in banca al signor Brunetta. Il nostro Cruciani, bravo, sempre pronto il nostro Cruciani, bravo. Raffaele da Napoli, buonasera. Buonasera. Dica. Avanti, venite. Complimenti innanzitutto per la trasmissione, anche perché è un po' che non volevo intervenire, ma non riuscivo. Vada. No, vado, nel senso che... Se non va, ci fermiamo. Sì, no. Sono rimasto tutta la gente. Cioè, rimango sempre un po' perplesso, un po' così interdetto quando ascolto alcuni personaggi come il precedente, Minzolini, insomma, l'ex sì. direttore. Che le ha fatto Minzolini? No, non mi ha fatto niente, era... Dal mio punto di vista era ridicolo quando era asservito al potere di Berlusconi. Noi ricorderemo bene degli editoriali che sono usciti, che erano veramente vergognosi. Mm. E adesso poi, erano editoriali, erano punti di vista, erano opinioni. Per lei vergognose, ma no, erano ma opinioni, punti di vista. Sa qual è il problema? Sono punti di vista. Per me non c'è mai nessuna vergogna nei punti di vista. Poi uno può essere d'accordo o no, ma il fatto che... Il suo stile... Il suo stile io lo condivido, anche se spesso non condivido alcuni suoi pensieri, ci mancherebbe altro, cioè, però condivido il suo modo di fare trasmissione, è interessante. Vabbè, poi? Che lascia sempre... No, voglio dire, hanno ancora oggi la faccia tosta di venire alla radio e dire, ma mi sembra strano che l'Europa, come dire, si rivolti un attimino a sentire ancora... Sa qual è il problema? È che l'Europa, per così dire, è un po', come dire, un po' più vergine rispetto a quello che... Cioè noi ormai ci abbiamo fatto il callo perché questo... Ma poi uno, che significa l'Europa poi? Ma che significa l'Europa? È lui, Minzolini, si meravigliava del fatto che l'Europa si fosse praticamente rivoltata all'idea che Berlusconi scendesse, sì. avesse deciso di riscendere di nuovo Vabbè, in campo. Ho capito, grazie. No, che vuole dire? Come che vuol dire? Si parla come se non si sapesse bene qual è il problema, insomma, di una persona che ha quasi 80 anni, cioè 76 sì, anni, sì. il nostro ex presidente del Consiglio, ancora decide ancora di scendere in campo, ovviamente per prendere tempo, per avere uno scudo mediatico per quanto riguarda soprattutto il Va processo. Bene. Grazie, Claudio da Milano, buonasera. Eccomi qua, finalmente, io tempo fa avevo chiamato... Quando Berlusconi era in pericolo e vi dissi, ma senza Berlusconi come fate voi a fare la trasmissione? Ma ve la siete cavata benissimo comunque perché avete trovato altri pagliacci. Cerchiamo di sgraffignare qua e là. C'è personaggi nel Parlamento, ce ne sono tanti, non è che c'è solo lui. Sul suo rientro voglio dirvi una cosa, quando dice che lo spread non conta niente, vabbè lo spread non conterà pure niente, però cacchiarola, eravamo sull'orlo del precipizio e non credo che Monti sia solo uno strumento della Merkel per salvare l'Europa, cioè l'Italia era messa proprio male. Assolutamente credo. Sì. A novembre era messa molto male, poi qualcuno parla di complotto, sì, Berlusconi aderisce alle tesi di Brunetta, per carità è tutto legittimo, però... Poi volevo complimentarvi, perché venerdì o giovedì, cos'era il 7, quando ha chiamato poi quel Cristo di fede che l'avete... Sì. Bella trasmissione. No, noi non abbiamo detto nulla, ha fatto tutto sì, lui. No, però Annarella prima, io sono anti, però Annarella lì ha dato una bella botta, Cioè nel senso che si è risentita, io l'ho risentita poi con mia moglie, così l'ho fatta sentire. Sì. Ah, perché lei la risente anche con la moglie la trasmissione? Sì, è troppo bella. È interessante questo. Io vado a vederla in fedele lei, in studio e sento voi. Anziché farla ascolta la Zanzara con la moglie, bellissimo. Sì, stupendo. E quando Annarella ha detto delle cose, tipo vabbè non le tiro fuori, poi ovvio questo chiama ed è stato uno show. Spero che sia tutto vero, niente preparato, perché tutto, sai, la TV, la radio. Ma mi spieghi, ma che preparato? Radio. Ma quale preparato? Su? No, no, questo. Ma dico, ero un ex radio, mi ricordo che qualche volta non c'eravamo chi ci chiamava per i premi, dovevamo magari trovarci, ma erano gli anni Ottanta, adesso è cambiato tutto, ci credo che c'è cascato, insomma, dai. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Beh, un grande ritorno alla zanzara, caro Parenzo. Un grandissimo ritorno alla zanzara. Miguel Gotor? No, ma che c'entra Miguel Gotor? Ma non, lo conosce nessuno. Non lo conosce nessuno. Lo conoscono solo i giornalisti, detto con tutto il rispetto, ovviamente, no? Bill Emmott. Ma che c'entra Bill Emmott? L'ex direttore dell'Economist, quello che disse che Berlusconi è unfit, eccetera. Sì, quello che adesso scrive anche sulla stampa. No, non è lui, non è lui. Siamo sempre in Europa, però non è lui. Siamo sempre in Europa? Altro tentativo, dai. Un altro, ah beh, potrebbe essere una delle più grandi firme, hai fatto molto bene a invitarla, Rossana Rossanda, perché da Parigi potrebbe tratteggiare. Ma che c'entra Rossanda? Ma tu parli sempre di minoranze estreme. No, vabbè, vabbè, grande ritorno alla zanzara. Marione Borghezio, buonasera. Buonasera e buona Padania. Vabbè, ecco, con la moderazione di sempre. Beh, la moderazione adesso mi sembra una parola grossa, caro Mario, però comunque mi sembra una parola molto grossa. Quanto sta godendo? Quanto sta godendo dell'addio di Monti? Caro Borghezio. Beh, insomma, una goduria immensa, perché devo dire... La dica la Borghezio. Cerco di esprimermi nella maniera più tranquilla e più moderata possibile, esatto. Comunque una liberazione. Bisogna spostare la data del 25 aprile. Questa è la vera liberazione. Perché, addirittura. Perché era peggio del fascismo, era una dittatura, la dittatura dei poteri ultraforti, dei banchieri, dell'alta banca, dell'alta finanza. Cioè il 25 aprile... Parlando così con molta tranquillità, sempre, diciamo una certa forbitezza, ce li siamo levati finalmente dai coglioni. Ah, ecco, addirittura ci siamo levati dai coglioni. Chi? Scusa, i poteri forti, chi? Questa gente qua che pretendeva di insegnarci tutti i giorni una lezione, quando poi insomma si è visto loro con le gaffe, gli esodati, non sono riusciti a combinare praticamente niente cazzo. Delle tante riforme che volevano fare. Ecco, quindi, nonostante la protezione del. Diciamo del Lord Protettore e chi è? Del Presidente della Repubblica. In realtà poi si sono squagliati come ne erano di fronte a il paragone interessante. La vera difficoltà che è quella di rimettere in marcia il paese, non hanno saputo produrre niente di il paese. Poi ma lei che gli frega poi del paese, scusi Borghezio. No, il paese purtroppo nella Repubblica Italiana, ripeto, purtroppo c'è anche la Padania, quindi finché siamo legati a questo carro non vogliamo che sia un carro funebre, vogliamo che sia un carro che... No, però scusi Borghezio, lei ha definito il capo dello Stato protettore, quel protettore Lord. Il protettore ricorda... Il Lord protettore, Lord protettore... Ma il protettore è il magnaccia. No, Lord protettore ho detto. Però anche lui si dimette, pare che si dimette anticipatamente anche Napolitano. Non dica così. Ma questa non sarebbe certamente una cattiva notizia, perché anche lui si deve togliere. Anche lui si deve togliere. Si goda un giusto riposo, questo va bene. Ecco. Meritato, o no? Meritato, tutte le persone anziane vanno rispettate. Sì. È un Lord protettore che però li ha protetti troppo, perché questi qui, parliamoci chiaro, era la banda del Bilderberg e quindi la banda del Bilderberg, questo io ve lo metto per iscritto, questo era il governo del Bilderberg, non a caso. Ma no, Borghezio, su quando è scattato l'anno l'anniversario dell'insediamento, sono venuti a festeggiarlo da tutto ma il mondo. Ma no, all'Hotel de Russie e con tanto di riunioni riservate. Scusi, però l'anniversario con uno spettacolo incredibile dei ministri che arrivavano, anche i ministri impedicciate, i giornalisti dicevano: cosa venite a fare al Bilderberg? Dice: ma non so di chi si tratta. No, andavano al Rio del Bilderberg, ministri e non sapevano che cosa. Scusi, però Borghezio, lei quando Monti si è annunciato le sue dimissioni, insomma, quanto ha goduto lei? Perché questo è interessante, cioè, proprio è stata una cosa pazzesca. Cioè... Io direi: guardi, è stata una notizia liberatoria, non ho altri termini da usare, è una notizia liberatoria. Cioè, ha festeggiato, ha brindato, ha fatto qualcosa. Ha festeggiato tutte le persone, non so, quando c'è stata la liberazione, quando c'è stata. aspetta ancora. Ah, lei tanto quando, la liberazione il 25 aprile, mica lo festeggia il 25 aprile lei. Ma io no, però anche perché non c'ero, ma quelli che c'erano era finita anche la guerra, quindi devo dire è stata vissuta da molta parte. Cioè la liberazione dovrebbe essere spostata, la data della liberazione dovrebbe essere spostata. La data della liberazione, che parliamoci chiaro, ormai non significa più un cazzo, deve essere spostata. No, la vera liberazione è questa, perché mica ci occupavano più, non c'erano né tedeschi né fascisti né la guerra. Avevamo però un totalitarismo molto più pericoloso. Ma no, io preferisco cioè nel negativo, meglio il comunismo e il fascismo di questi qua. Addirittura peggiore che ci sia. Ma no, ma meglio il comunismo cioè, e il fascismo. Nella scala gerarchica del negativo, questi superano tutti, perché il senso di oppressione di totalitario che dà un regime come questo. Ma come fa a dire così? Pensate al tono di disprezzo con cui parlavano della politica e quindi della democrazia. Questi erano ma lei nei confronti di Monti, se lo incontrasse per strada, cosa farebbe lei, Borghezio? Ma mi toccherei i coglioni, perché sono convinto che porti anche un po' maluccio. Ma no, l'aria funebre ce l'ha, bene non ha portato. Ma adesso pare che potrebbe candidarsi fra qualche giorno. Speriamo di no. Comunque il Lord Protettivo lo ha già garantito. Quello non veniva a fare presidente pro tempore senza avere la pensione assicurata. Quindi parliamoci chiaro, questa è tutta gente che non ha mai rischiato un tubo nella propria vita. Sono assicurati prima di questi. Nessun rischio. Il povero deputato senatore di Palude, come lei, come tanti altri, rischia, perché magari spende per la campagna elettorale, ci fa delle inimicizie, botta, suda, rischia l'infarto e poi dura circa. Questi invece senatori a vita, capisce? Questi mica si accontentano del laticlavio di 2 anni. Anche Napolitano farà il senatore a vita? Beh, quello è diverso, è un Presidente della Repubblica, c'è una Costituzione che lo dice, ma invece questo gli è stata regalata, per quali meriti non si sa. È un grande italiano. Ma grande italiano, poi tutto da vedere. Ma è un padano comunque, nella sua ottica è un padano. Nella sua ottica Ma guardi che una delle mie frasi storiche, che della Lega tutti conoscono, è questa: non è che i padani in molti casi non siano anche un po' italiani, e questo invece è un tipico. Cioè, tipico che? Tutti i difetti e nessuno dei pregi degli italiani, e fra cui questa mentalità sostanzialmente. Burocratico statalista sono perché questi sono liberisti a parole, ma poi sono sempre vissuti a spese del pubblico, quindi parliamoci chiaro, del pubblico, ma non è vero, le piccole e medie imprese, il senso che abbiamo noi della per esempio il senso della protezione della piccola proprietà immobiliare, proprietà. I primi che sono andati a inculare sono stati i piccoli proprietari immobiliari, e questo è ingiusto, perché la piccola proprietà immobiliare oggi è dell'impiegatino. Ma lei la paga l'IMU? Borghezio, l'IMU la deve pagare lei? Quante case ha lei? No, io ho ho costruito col mio lavoro semplicemente un alloggio, e poi ho quello dei miei, che ho ereditato dai miei, un alloggio nel quale ho il vecchio studio, e questo l'ho acquisito io per il risparmio. Comunque, Borghezio, la domanda è questa: ma Grillo, che dice, ma insomma basta con questa democrazia, decido tutto io, un po' le piace questo piglio di Grillo, un po' le piace? Ma Grillo è simpatico, devo dire onestamente. Grillo sembra Bossi, sembra Bossi. I grillini sembrano un po' noi 20 anni fa, e quando arriveranno, e sicuramente arriveranno numerosi a Roma Ladrona, verranno accolti come noi, ma come degli UFO. Io mi ricordo che ci chiedevano se eravamo stupiti di Roma, sembravamo gente che arrivava dai 4.000, e loro verranno trattati con la stessa sufficienza. E io spero che siano una sorpresa negativa per i padroni del vapore, che portino veramente una ventata di freschezza come abbiamo fatto noi. Scusi, Borghezio, ma voi ancora più risultati di quelli che abbiamo ottenuto? Voi ancora siete attaccati un po' a Berlusconi? Stasera ci sarà una cena, se non c'è stata ieri non mi ricordo più, ma insomma rischiate di andare ancora in alleanza con Berlusconi? Noi abbiamo un punto di riferimento, che è la libertà del nord, quello ha insegnato Miglio, Bossi, adesso Maroni, si vede vendere anche puntini. Cioè, bisogna, cioè bisogna adattarsi, bisogna adattarsi e fare anche dei compromessi. Anche con Berlusconi, dice lei, anche con Berlusconi. Bisogna fare dei compromessi. Io ovviamente sono sempre stato, prima di Berlusconi, eccetera, sono sempre stato per la Lega sola, dura e pura. Beh, però, vabbè, ho sempre obbedito quando la Lega ha fatto dei compromessi, dicendo per cui si può andare ancora con Berlusconi, dice io lei. Sono un soldato politico, quindi quello che decide la quello Lega che decide Maroni no, appunto, va bene, l'importante è che possiamo continuare a fare la nostra battaglia, il nostro discorso, una Lega che deve continuare a essere con la spada sguainata e per quanto mi riguarda indipendentista scatenata. Vabbè, quello no, infatti non... noi il 21 che fa del 21? Faremo i fuochi dell'indipendenza. I fuochi dell'indipendenza. Ma che vuol dire i fuochi? Volete venire, vi arrossiamo tutti e due, volentieri. Comunque, no, per carità. Ma scusi, i fuochi sembra il Ku Klux Klan, i fuochi. No, fuochi diciamo certo longobardi, fuochi. Cioè, accendete dei fuochi, non ho capito. Il 21 dicembre facciamo il solstizio dell'indipendenza. Ma no, cioè, Borghezio, pure con i fuochi. Fuochi dell'indipendenza. Ma è pericoloso, è pericoloso. Ma no, è col permesso della forestale, ma i fuochi sono pericolosissimi. No, non sono pericolosi, abbiamo già fatto a Coni, alto 10 metri, una cosa modesta. Ma ricordano quando si bruciavano i neri nell'America, no, nell'America nessuno razzista? Brucia, nessuno brucia né neri né bianchi né gialli, perché noi non siamo razzisti, però direi un rito antico. Monti a rogo ce lo metterebbe, eh? No, Monti no, ma diciamo il ricordo del suo governo volentieri. Beh, anche Monti lì a rosolare, no? No, non si può. A fuoco lento, può. Come dice una nota barzelletta, non si può più. Non si può più. Come non si può più? Peccato, dice lei. Peccato. No, è una barzelletta che riguarda i vecchi roghi, eccetera. Senta, ma lei no, veramente, io con questa storia degli alieni, veramente lei ci crede? Io non ci posso, non mi arrendo a questa cosa. Io le dico, prima di tutto, sa, prendevano per il sederino me, e quando ho tirato fuori questo discorso, adesso che lo dice meglio, ma avrà bevuto un po' di vodka, avrà bevuto un po' di vodka in più, avrà bevuto un po' di vodka. No, il problema è questo, che come tutti, ma ricordiamo che di queste cose hanno parlato Carter, ha parlato Reagan. Ho capito, ma lei crede veramente che gli alieni siano tra noi? Mi dica la verità, questo. No, io credo fermamente che su questa questione sia stata segretata dalle grandi potenze. Ho capito, ma lei ha detto, sono tra noi, so per certo che ci spiano. No, ci lì hanno riportato, io ho detto che una grande giornalista d'inchiesta, americana ha sostenuto che sicuramente intervengono, sono fra noi, e intervengono perché sono molto preoccupati dell'uso militare potrebbero fare Mario. E questo è quello che sostiene questa giornalista d'inchiesta. Vabbè, lei ci crede o no? Io sono sempre stato uno scettico, però di fronte al fatto sì, che le grandi potenze abbiano segretato e che continuano a segretare, che con qualche sospetto a lei viene. No, io non ho il sospetto, ho la certezza che sotto ci sia qualche cosa. Ecco, ma lei nei confronti di Monti, se lo incontrasse per strada, cosa farebbe lei, Borghezio? Ma mi toccherei i coglioni, perché sono convinto che porti anche un pomeruccio. Ma no, ma no. Spostare il Festival di Sanremo per le elezioni. Per le elezioni. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Sulla musica di X-Files, Mario Borghezio, che pensa che esistano gli alieni, gli UFO, o comunque ha forti sospetti. Tu non ci credi invece? No, assolutamente non ci credo. Sento scettico. Sinceramente non mi sono informato abbastanza. Borghezio, io volevo capire una cosa, ma il capo di questi, cioè che il disegno alieni, qual è? Il capo degli alieni, chi è? Ma chi lo sa, non ne sappiamo niente, non ne sanno niente almeno. Ma chi potrebbe essere? Di preciso, ma io le dico una cosa, consideriamo che ci riveli qualcosa. Un'entità di prudenza, direi secolare, sì, come la Chiesa Cattolica, si apre all'esistenza di forme di vita su altri pianeti. E quindi voglio dire, ormai siete di scettico, ce l'ho più lei. Chiuso alla possibilità. Non siamo noi che siamo, diciamo, disponibili all'ipotesi, e siete voi scettici che siete fuori. Ma scusi, Borghezio, in un mondo, ma chi potrebbe essere? Aperti all'ipotesi, Io voglio degli alieni francamente me ne fotto, ma lo dico con rispetto degli alieni. Ma lei ha paura degli alieni? Cioè, bisogna aver paura. Io li vedo come un fatto positivo. Perché? Un fatto positivo. Ma un fatto positivo perché ci possono portare solo del bene, in quanto questo mondo va verso la rovina, le guerre nucleari, vediamo. Non c'è un bel clima, non c'è un bel clima. Io non a caso io difendo il messaggio fatimista, sono... Ah, di Fatima, sì. Non vedo bene, vedo un mondo che non va verso il meglio, il terrorismo islamico, le minacce nucleari... Sembra che ci si avvii verso un imbuto di tensioni, di guerra. Senta, ma il polo di centro, il famoso polo di centro dei cosiddetti moderati. Questi qui sono proprio, diciamo, a spazzatura della politica. Come diceva il vecchio Bossi, sono i catturandi di C, democratici catturandi, una cosa del genere ha detto. Vi ricordate come chiamava Demitra? Lo chiamava Demitra. Sono facce patibolari che continuano a impestare la politica italiana, di cui non ci libereremo mai. È per questo che ci devono venire gli alieni, almeno ci liberassero questi qui, ecco. Grazie, a presto. Arrivederci. A presto. 800. Mi raccomando, tutti presenti il 21 dicembre nelle alture. Fuochi dell'indipendenza. Ma i fuochi chi li fa? Libera, ma sempre, libertà. Chi li accende? Chi li accende i fuochi? Vabbè, attaccato. Chiuso, libertà, i fuochi. Mauro da Mantova. No, c'è me. Dica. Allora, per gli alieni, io credo che allora Rubbia è uno sciocco. Lo ha detto lui. Allora? No, questo è il solito demente. No, ha dichiarato 2 anni fa. È ovvio che nell'universo non siamo soli. E penso che Rubbia non sia il primo imbecille. Non ho capito nulla, scusa. È il solito poveretto questo, ha dichiarato, quando gli ha fatto la domanda, secondo lei siamo unici nell'universo? Sì. Lui ha detto, è fuori dubbio che non siamo da soli. Ma chi l'ha detto? Carlo Rubbia. Ah, Carlo Rubbia, sì. E allora? Perché ha scoperto l'antimateria, cioè i poteri, quindi non penso che sia il primo imbecille. La Margherita Hack, il personaggio lì che ha messo proprio qui sul gozzo, che ha sempre detto, sono imbecilli quelli che pensano che ci siano altre forme di vita. Un anno fa ha dichiarato, bisogna ammettere che ci sono altre forme di vita. Cambiato bandiera perché l'ha detto Rubbia, quindi anche lei. Anche lei ci crede, anche lei crede agli alieni, Mauro. No, non è che credo, ma lei cominciava a credere che siamo gli unici. Non mi pongo il problema. È matematico che non possiamo esserci solo noi. Ci sono 1 miliardo di sistemi solari, non vuole che ce ne sia un altro di forme di vita, o altri tipi di forme di vita simili. No, ma è diverso perché Borghezio e altri sostengono che gli alieni sono tra noi. Va bene, Mauro, grazie. Giovanni da Varese. No, momento. Momento che? Io non mi ha fatto dire come è composto il nuovo governo che ci sarà nel 2013. E qual è, come sarà composto? Allora, Bersani nel ruolo di Lerch, Vincola nel ruolo di Mortizia, Tabacci nel ruolo di Zio Fester, Labindi nel ruolo della moglie di Zio Fester, Finocchiaro nel ruolo del cugino Hitch, e D'Alema nel ruolo di Gomez. Ed ecco la famiglia Adams! Perché questo si riduce, e io spero che non si avveri questo incubo, spero che non succeda, perché preferisco qualche danno che fa Berlusconi piuttosto di vedermi la famiglia Adams. Giovanni da Varese, grazie Mauro. Un personaggio pazzesco questo Mauro. Giovanni, buonasera. Giovanni da Varese, dica. Lo ringrazio pure. Vada. Niente, mi volevo... Così, sono stupito di Berlusconi che dice che all'estero non danno diritto di criticare la politica italiana, le persone, eccetera. Anche perché lui stesso, quando si è insediato, ha fatto fuori Biagi, Luttazzi e dopo un po' Santoro, e loro erano tutti e tre italiani. Loro non avevano diritto di critica. Vabbè, questa è una stupidaggine, Giovanni, su. Cioè, è una stupidaggine questo paragone, che poi all'estero abbiano diritto a criticare Berlusconi, certo, nessuno dice il contrario, ma si può anche ragionare sul perché lo facciano. Allora, sul perché lo facciano, ma non sul discorso che non possono esprimere. Ma no, una chi dice è un'ingerenza, eccetera, è ridicolo. Certo, a me pare assurdo che uno non possa fare una campagna elettorale come vuole, anche in nome dell'antieuropeismo, di alcune decisioni prese in Unione Europea, di alcune decisioni non capisco perché tutto questo deve essere dipinto come una sorta di attentato al benessere dell'Italia. Ma di che si parla? Cioè, ognuno ha diritto di fare la campagna elettorale che vuole. Al benessere dell'Italia no, ma all'unità dell'Europa sì. Perché, ma che unità perché dell'Europa? L'Europa sia unita, bisogna che ognuno faccia la sua parte. E molti hanno i dubbi sul fatto che l'Italia possa fare la sua parte in Europa. E l'avvento di Berlusconi per molti potrebbe significare diciamo la parte furba dell'Italia invece che della parte Ma questa qua è una valutazione che ci può stare, però insomma non è che siamo nel campo della dell'eversione rispetto o dell'attentato alla Costituzione. Cioè, ci sono forze politiche che hanno deciso di fare una campagna elettorale in un certo modo, prima ne dicevano altre cose, e insomma gli elettori sanno, non sono cretini, non sono stupidi, anche se si tende a dimenticare spesso e volentieri quello che una persona diceva sei mesi, un anno prima. È ancora a casa. Che ci frega, ma che ci importa? Se lo stravino ci ha messo l'acqua. È in collegamento dalla Scala di Milano, dove è a vedere il non mi ricordo che cosa. Il Lohengrin, senatore dell'Utri, buonasera. Eccoci, buonasera, buonasera. Com'è lo spettacolo, senatore? Spettacolo è bellissimo. Poi non so, è inutile fare dei commenti che sono stati fatti dalla prima da tutti i personaggi di questa terra. Scusi, c'è anche Alfano? C'è anche Alfano lì? No, Alfano non l'hanno fatto entrare. Ma perché? Come mai? Perché? Perché non fa parte della comitiva nostra. Ah, non fa parte della comitiva sua? Non c'ha il quid. Non ha il quid per la Scala? Lo so, se ce l'ha per la Scala può darsi, ma io non lo so. Non è ammesso. Non è ammesso alla Scala, non lo vogliono alla Scala, lo fermano prima. No, prima. Scusi un attimo, ma come mai si è arrabbiato così tanto per questa cosa che lei ha detto? Lei ha dato un giudizio politico molto severo su Alfano, per carità. Come mai ha detto che lei è un povero disgraziato? Una cosa incredibile. Ma perché così, insomma, diciamo che lo ha ferito, ma io ho fatto un giudizio che tutto sommato ha anche dato in chiave bonaria e positiva. Addirittura positiva, adesso positiva non esageriamo, insomma. Sì, perché ho detto che è uno bravo, che si farà, che diventerà importante, che è la verità, ho detto quello che penso. Sì. Ed è in chiave positiva, ma adesso non voglio dire di peggio, ecco. Cioè, non mi faccio dire. Beh, no, come non le fai? È la polemica del giorno, ma come mai? Insomma, no, io voglio dire dell'Utri, la realtà è che negli anni passati, quando lei era, insomma, come adesso, sotto i riflettori, non è che Alfano non ha mai detto una cosa contro di lei. Ha alzato la testa ora. Com'è che adesso prende le distanze? Perché io appunto ho fatto una critica che è un fatto, diciamo, politico. Sì. E lui si è sentito risentito, ma dimostra anche qui l'immaturità, insomma, in questo senso, cioè, perché non c'era niente da dire, era una cosa da prendere. Io l'ho detto, ma è poi una cosa che dicono tutti, questa che ho detto io la dicono tutti, anche Berlusconi in giro. Non so, Berlusconi a me non l'ha detta, Berlusconi onestamente non posso dire. Ma lei dice detta. Basta andare in giro, che vuol dire nel PDL, dice lei? Ma sì, in giro lo dicono, non è una cosa nuova. Io ho detto che diciamo è un ragazzo che ha dei numeri, delle qualità, ma non ha attualmente diciamo così le capacità per rivestire un ruolo di questo livello, di questa importanza. Vabbè, lei ha detto mai esistita la segreteria di Angelino Alfano, insomma. È vero, non è mai esistita, cioè lui si è occupato, ha dovuto fare altro, non, della segreteria non ha fatto nulla. Ma cos'era? Un buco, cos'era? Totale assoluto. Tutto qua. Il partito che non prende le difese di cose importantissime, sta zitto, non lo so, mi sembra una cosa. C'è il famoso libro di Ingroia che si chiama Come no? Io so, e questo dice che Forza Italia è nata dalla mafia, diretta emanazione della mafia, e questo non dice niente. il segretario del partito, ma il partito fondato da Berlusconi, sì, e da me ovviamente, che lui accetta che sia partito della mafia, ma non stiamo scherzando, ma, no, dove, ma dove siamo? Non ha detto, cioè, una parola. Non avere il coraggio di dire, non ha detto una parola, una, ma com'è possibile? Ma Berlusconi è pure arrabbiato per questo? Si è arrabbiato, certo, penso di sì. Io non c'ho su questo argomento, non l'ho affrontato. Ma lei l'ha letto il libro? No, io non l'ho neanche letto. No, no. Questo di Ingroia. Ma l'ha comprato, no, almeno. Da, mi hanno gli avvocati che stanno facendo una bella querela. Ah, lei querelerà Ingroia per questo? Vabbè, per forza. Io, ma lo deve fare anche il partito. Ma non si può accettare una cosa del genere. E perché Alfano sta zitto? Perché sta zitto? Perché gli mancano gli attributi che ho detto. Le palle, gli mancano le palle. Chiamiamolo così. Non lo so, ma che altro? Uno non può darsi il coraggio. Come diceva il Manzoni, se uno non ha il coraggio non se lo può dare. Sì, pazienza, rimane comunque una brava persona. Perché in questo libro... A Don Abbondio? A chi lo possiamo paragonare? Lei che è un uomo di cultura, insomma, Alfano. Alfano a chi paragonarlo? In che senso? Sì, insomma, no, quale grande personaggio? Quale grande personaggio? No, no, nessun grande personaggio, perché ancora non ci sono le condizioni per paragonarlo a un grande personaggio. A Don Abbondio? Ma Don Abbondio è facile, Don Abbondio è un'altra figura. Comunque, guarda, in questo libro ci sono scritto, io ho letto dei passaggi di questo libro quando me l'hanno dato. Terribile. Cioè, sul mandato di Cosa Nostra lei avrebbe spinto Berlusconi a scendere in politica. Forza Italia, punto di riferimento di Cosa Nostra. Beh, è una cosa inaudita che questo signore si permetta di dire io so ma non ho le prove. Ma stiamo scherzando? No, lui dice io so. Ma in che mondo viviamo? Lui dice così, io so ma non ho le prove. No, ma perché ho le prove? Sai? Scusi, scusi se... No, non si figura. Non mi arrabbio più perché ormai ci ho messo... Ma è in Guatemala, è in Guatemala adesso. Sì, stia lì. Però in realtà poi è in Guatemala per modo di dire, Per modo di dire, lo so. Però è sempre qui in giro in televisione, di qua e di là. Ma no, ma non si può accettare, capisci? A parte che c'è la prova la prova logica della intelligenza, che ciò non è possibile. Cioè? È impossibile. Ah, la cosa della mafia, dice lei. Della mafia, sì, un partito che si è inaugurato con una serie di signori intellettuali, da Martino a Pera, a Vertone, a Melograni, a Colletti, Giuliano Ferrara, ma voglio dire, ma che stiamo, sei un'offesa a tante persone, una cosa che... Ma lei vuole portare Ingroia in tribunale, cioè mentre Ingroia ha portato lei in tribunale, in alcuni casi... Lo porterò dall'altra parte. Lo porterà dall'altra parte per queste affermazioni. Certamente. Poi pare... Ma scusi, non può scrivere queste cose, non è ammissibile, non esiste. Ma come lo posso dire in maniera più... Lo dica in maniera più plastica. Forte, in maniera più forte, più plastica. No, non mi voglio incantare. Che ne so, se ne vada a fare al diavolo, che ne so, Ingroia. Che ne so, lo mandi a quel paese. Basta, è andato in Guatemala, già, se vuole che lo Però pare che torni per candidarsi. Pare che torni per candidarsi. Perfetto, sarebbe perfetto. È proprio la conclusione logica. Lei se lo augura? No, a me non me ne frega niente, si figuri, ma sarebbe la logica conclusione di tutto il suo modo di agire, di una giustizia politicizzata, perché questo è e questo è successo. Ma lei lo sfiderebbe in televisione, oltre che nell'aula di tribunale, in televisione un bel duello in Groia dell'Udine? Una mafia. Lei lo farebbe? Le primarie facciamo. Sarebbe divertente, no? Sì, facciamolo, io per carità. Però io le voglio chiedere una cosa fondamentale, ma lei che ha sempre detto che si è candidato per difendersi dalla magistratura, e lo ha detto, devo dire, mettendoci la faccia, non è che si è nascosto di fronte a questa cosa, lo ha detto in maniera chiara, lampante, trasparente, ma ha intenzione di ricandidarsi? Certamente, ho detto, finché ci sono queste condizioni per cui uno può essere perseguitato in questa maniera, io ho intenzione di candidare, logico. Dunque nel 2013 lei sta con Berlusconi, io voglio lottare ancora, voglio lottare fino all'ultimo sangue, spero degli altri, ma voglio lottare, ecco. Per cui lei nel 2013 sarà in una lista con Forza Italia con Berlusconi? Io certamente mi candido. Forza Italia. Poi sarà l'elettorato a dire no. Beh, con le liste bloccate, ci sono le liste bloccate. Non lo so, ma sarà l'elettorato a dirlo, vedo. Ma non deve decidere il partito. Qualche altro che deve... Come? No, dico al senatore Dell'Utri, buonasera Parenzo, ma non deve decidere il partito, cioè non è può andare lì e dire io mi cambio di chi è il partito? Chi è? Alfano? Alfano è il segretario. No, non lo so, è segretario. Sì. Ah sì, vediamo. Ma chi le decide le candidature? Berlusconi, immagino. candidature si decidono in un contesto un po' più ampio, in un tavolo di persone che ragionano. No, perché Alfano a Porta a Porta ieri sera ha detto, Berlusconi, riferendosi a lei, Berlusconi deve stare attento alle candidature, dunque in realtà Alfano non la vorrebbe ricandidato, nemmeno la Meloni, l'ha detto pure lei. Ma io non so se ricandidiamo Meloni e l'Alfano, allora, cosa vuoi che le dica? Che senso ha questo discorso? Che siano loro a dire un discorso, ma quale diritto hanno? La Meloni ha detto, in un mio partito non ci sarebbe posto per... si dovrebbe ma fare neanche, ma neanche nel mio ci sarebbe posto per lei, allora. Perché? E perché non ci sarebbe, non è neanche del nostro partito la Meloni, no? Beh, come no? Sì, è nel PDL. Allora, se la pensa così, la penso così anch'io. Lasciamo perdere, perché poi sono polemiche veramente inutili e anche un poco... Cala. Tu sei come una piccola... Dalla Scala di Milano... Il senatore Marcello Dell'Utri, 800240024. Forza Italia ormai alle porte, senatore Dell'Utri, la ricostituzione di Forza Italia o no? Ma non so, ancora qui è tutto così ritardato e allo stesso tempo veloce, per cui non si sa niente ancora. Vede, ogni giorno cambia scenario, si cambiano situazioni, quindi ancora non c'è niente di... Ma lei se lo augura? Se lo augura? Ma io non mi auguro, io mi auguro che si vada a votare e che ci sia la possibilità di difendersi nel voto, di raccogliere i consensi che si è in grado di raccogliere. Certo che non, Berlusconi dice che scende in campo per vincere, quindi... Beh, lei ci crede? No. Ci credo. Poco, stavolta poco. Ci dobbiamo credere tutti, ci dobbiamo credere. Poi dopo vediamo, certo, diciamo che le apparenze non sono le migliori, però... Però, ho visto grandi rivolgimenti e clamorosi anche quando... In pochi mesi, quindi tutto è possibile. Senta, ma la Boccassini che dice che Berlusconi vuole evitare la sentenza prima delle elezioni, l'ha sentita l'altro giorno? Sì, ho sentito questo discorso, sì. Non lo so, lo dice lei, io non credo. Non credo, perché Berlusconi ormai in questo discorso è lì, diciamo... Se ne frega ormai delle sentenze. Se ne frega, no, però cosa può fare? Si è impotenti, quindi cosa vuole tardare? Ma è meglio la Boccassini o Ingroia? Chi è più pericoloso, la Boccassini o Ingroia nella sua volta? Ingroia alla fine. Sì, secondo me sì. Cioè, Ingroia lei lo considera proprio pericoloso e sovversivo proprio. Ma è un personaggio al di fuori di ogni logica. Cioè, se lo incrocia, se lei ce l'avesse di fronte, no? Cosa direbbe Ingroia? Di fronte, proprio a pochissima distanza, che farebbe? Gli direi che ha preso un granchio, che è un pazzo che ha preso un granchio. Io comunque l'ho incontrato, una volta l'ho pure abbracciato. Addirittura? No, sì, perché c'era la Pasqua, ma tanti anni fa, ancora pensavo che fosse una persona normale. Ma come l'ha abbracciato? Che c'entra la Pasqua? C'era la pace, come? La Pasqua tutti in pace. Ho detto, dottor Ingroia, auguri, pace, bene. Un abbraccio. È stato un abbraccio, ma pensavo fosse, ripeto, una persona normale. E invece è un pazzo. Fa il suo mestiere, ma non è normale. Non è normale, ha qualcosa che... Ma guardi i libri che scrive o gli interventi che fa o quello che dice. Ma sto libro dovrebbe essere sequestrato, secondo lei, questo libro? No, sequestrato no, perché... No, lei che è un cultore dei libri. Abbiamo libertà di... No, dovrebbe essere mandato al macero, non sequestrato. Ah, mandato al macero, mandato al macero. Perché è un libro, che libro è? Ma se lei va in libreria oggi, c'è una metà dei libri da mandare al macero, quindi questo e gli altri non c'è nessun problema. Senta, ma lei questa legge sull'incandidabilità dei condannati la farebbe passare, sì o no? Sì, la farei passare. La farebbe passare, anche se non la riguarda direttamente, pare. Non lo so, se mi riguarda, mi riguarda, anche se è ingiusta per me, però se è giusta per tutti. Ma Alfano, io non ho nessun problema. Alfano, una cosa giusta l'ha fatta, una cosa caratterizzante e giusta, una. Non se la ricorda, forse ci voglio. Pronto? No, faccio fatica a ricordare, in effetti. Una dichiarazione che le è piaciuta, no, forse manco una. Dice cazzo, bravo Alfano. Pronto? Sì, no, ne ha fatte di cose buone. Solo di cosa? Cioè, la dica una. Complimenti. Non se la ricorda, No, però le ha fatte, non me le ricordo, però ricordo di avergli fatto i complimenti, quindi evidentemente le ha fatte. Ma ha visto Napolitano che l'ha spuntata alla fine, con la procura di Palermo? Vabbè, napoletano. È napoletano, è napoletano, mica Berlusconi, dice lei. Il capo dello Stato, no, è qui. La spuntata aveva ragione di spuntare, non è che l'ha spuntata perché era il capo dello Stato, perché aveva ragione di spuntare. Comunque, la Meloni che non vuole dell'Utri, siamo ormai al ribaltamento, ma non ha mai parlato contro di lei, però per come tutti quanti hanno il coraggio di parlare contro di lei? Hanno il coraggio, chi lo sa, si vede che hanno trovato la vedono più debole, questo è il punto. Può darsi, quando e si invece dalle mie parti, quando l'albero cade tutti corrono a far legna. Cioè quando sentono un animale quando ferito sentono, sì, tutti ma non ce la faranno Comunque anche Michele Placido vuole fare un film su di lei, senatore Dell'Utri. Io ho detto mi piacerebbe molto, ma non fatto da Placido, che è un ottimo attore, bravissimo, ma come regista preferirei un regista tipo Rosi, ecco. Però lo farei male. Ma lei reciterebbe una parte in quel film, in un film del genere? Ma io non so se so recitare, se c'è un bravo regista e mi vuole far provare, io sono disposto a provare, non so se so recitare. Però non si tirerebbe indietro a interpretare se stesso. Ma bellissimo, sarebbe un'esperienza straordinaria. Non so come la dipingeranno, però. Non lo so, comunque sia, io. Cioè, farebbe anche la parte del politico mezzo mafioso, che se è questo che vogliono fare. Se è una sceneggiatura, se è una cosa da film, lo farei. Se invece un documentario, no. No, certo, quello è chiaro. Non so se ho la faccia giusta, non lo so. È da un po' di tempo che non ci sono dei film sulla mafia in televisione, delle serie. Sì. Da quello che trasmisero su Canale 5, là come si chiamava? No, ma ci sono sempre, che poi le ripeto, non sono repliche. Siamo pieni di questi film. Non è amante lei di queste cose, mi sa? No, proprio per niente. Non mi piacciono, mi fanno schifo. Addirittura? Perché? Sì. Perché? Che ma fanno? Perché sono quasi strumentalizzati e alla fine ci fanno danno anche a noi. Fanno danno all'Italia. Fanno vedere il paese così, sembra che sia tutto una città. Ho capito, però il problema che c'è. Sembra tutto in mano alla mafia, dice lei, no? Sì, così. Comunque, che bisogna fare? Mi faccio domande più intelligenti. Sì, oggi siamo un po' a corto. Siete un poco a terra. No, a terra no. Scusi, ma adesso però siamo sinceri, Dell'Utri. Siamo atterriti dalla situazione. Vuol dire, Berlusconi che viene dipinto come una mummia che ritorna dai giornali stranieri, a 76 anni, ma lei anche lei si rende conto che non è il caso? No, certo che anche io, per primo mi rendo conto che non è il caso. Ecco, non però è il caso di che cosa? Che questi qui facciano questi commenti, che sono ingenerosi, sono veramente delle cose sporche. Però a 76 anni, a 76 uno si dovrebbe dedicare anche ad altre cose, senatore Dell'Utri, sarebbe meglio o no? Ma questo è un discorso molto demagogico. No, dopo tanti anni, non 76 anni perché uno ha 76 anni, dopo tanti anni in cui uno è stato presidente del Consiglio tante volte, insomma, dopo 20 anni uno dice, passo ad un altro, però non c'è. Può darsi, anche prima uno potrebbe farlo, ma se Berlusconi si sente ancora in grado, si sente con le energie giuste, con l'esperienza ancora più grande, se vede che non c'è alternativa, vede che non ci sono, così, non nascono nuovi elementi in grado di proteggere il paese da tutte le cose che succedono, è legittimo che dica vi voglio candidare. Monti che si candida, secondo me, a parte la persona assolutamente degna, che se si candida fa un errore. Io non credo che Monti sia così, disattento alle cose. Potrebbe farlo. Senta, un'ultima cosa, quando lei vede in televisione, che ne so, tutta la vecchia guardia del PDL, Cicchitto, La Russa e Gaspari, cosa prova quando li vede in televisione? Ma io di solito cambio canale, per cui è così. Perché? Vabbè, la lasciamo alla Scala. Va bene, grazie mille. A presto, senatore. Buona fortuna, con Ingroia, grazie, quando lo incontro glielo dico, va bene? Saluti a tutti. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, why don't you go home? Non mi moleste moschito, let me eat my burrito, non mi moleste moschito, why don't you go home? Thank you. questa ragazza che ormai da un po' di tempo a questa parte è accanto a Berlusconi, lo vogliamo dire chiaramente che la fidanzata di Berlusconi è la signora Pascale? Non è che lo devo dire io, lo dice il presidente. Ma io dico, sono, per me è una cosa bellissima. Io la conosco, sì, certo, come la fidanzata. Come la fidanzata, di come certo, la fidanzata, che ne so, come qui. La grande rivelazione della Santanchè ieri sera: la Pascale è la fidanzata di Berlusconi, diciamola tutta, diciamolo chiaramente, no Parenzo? Certo, è confermato dalla signora Santanchè, che è molto informata. Ma ci fu già una foto, peraltro, pubblicata allo stadio. Sì, con un bacio, con una, un simil bacio. No, no, non è tecnicamente un bacio, perché un bacio prevede anche la tirata fuori della lingua. Ma significa tubavano? Tubavano. Ma poi c'è bacio e bacio, mica ci deve essere per forza la lingua nel bacio, chi l'ha detto? Per definizione quello con la lingua. Lì non c'era lingua. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Vabbè, ma è così. C'era un avvicinamento amoroso con sospiro. Cioè si avvicinava la bocca sospirando, quindi ancora di più forse di quella... gesto animalesco della pomiciata, e c'è di più. Siete delle merde! Siete delle merde! Magari una che mi contraddica, qualsiasi cosa dica, che non mi faccio uscire con gli amici. Sabino da Lucca, buonasera! Perché così a buffolo butti così? Sabino, dica. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Vada. Volevo, sono a cena, volevo solo dire a tutti quanti che finalmente ci siamo liberati del testa di legno portavoce che non serve a nulla. Quello che sarebbe, ha fatto lui, scusi, l'avrebbe fatto anche mio figlio. Ma chi sarebbe, scusi? Parliamo del presidente Monti. Ma su, Sabino, ma lei ha bevuto? Ex presidente del Consiglio. Fortunatamente ci siamo liberati. Se noi seguissimo quello che ha fatto l'Islanda sarebbe fantastico. Quello che ha tante fatto? Tante persone non sanno cosa ha fatto l'Islanda. L'Islanda. Tanti non lo sanno. Sì, ma noi non siamo l'Islanda. Ha capito? Siamo molti di più, siamo pienamente d'accordo. Esatto, bravo. Però poi l'Islanda poco tempo fa ha fatto bancarotta, poco tempo fa l'Islanda. Certo, ha fatto bancarotta, certo. Sì. No, no, ma così. Ha fatto un referendum, è tornato alla sua corona islandese. Ah, lei dice che bisogna tornare alla lira, lei dice. Ma sarebbe fantastico, sarebbe fantastico. Perlomeno non dobbiamo dipendere né dalla Germania, né dall'Europa che non esiste, sì, né da nessuno. Sì. E avremmo un sacco di lavoro e la gente non sarebbe affamata. Come si trova in questo momento? Guardi, fosse così semplice, non lo sostengono nemmeno quelli che legittimamente pensano che sarebbe meglio tornare alla lira. Cioè, non sono così entusiasti come lei. Romano da Roma, buonasera. Buonasera dica. Giuseppe, buonasera Parenzo. Ma Parenzo c'è, sì. C'è. Non vuole che sia. Parenzo, perché doveva arrivare Monti per riavvicinarmi io al Berlusca. Cioè? Cioè, in questo anno lei si è riavvicinato a Berlusconi? Io l'ho riavvicinato a Berlusconi. Perché, per la verità, le cose che ha fatto Monti, forse Berlusconi le faceva meglio? Punto interrogativo. Ma non lo so, ma che vuol dire questo qua? Non dobbiamo mai dimenticarci, vabbè. Poi, come ho già detto prima, noi abbiamo l'abitudine di dimenticarci tutto quello che è accaduto. Cioè, a novembre eravamo veramente con le pezze al culo, a novembre dell'anno scorso. Certo. Cioè, veramente con le pezze a un passo dal default. Questo bisogna. Però, e non è che lì c'era il signor Monti a guidare, macchina. Non c'era il signor Monti. C'era Berlusconi, la Lega, cioè quelli che oggi strepitano contro Monti. E non è che quello che è successo in questo anno, dove sicuramente saranno stati commessi degli errori, sia solo il frutto di quello che ha fatto il governo, ma anche di quello che hanno fatto i governi precedenti. Però il motivo della presentata era un'altra, cioè Monti comunque ha perso la grande occasione per passare alla storia. Quello può darsi. Cioè, se all'inizio Monti, quando si scandalizzò a Milano che arrivarono tutti quanti i deputati, i ministri con le scorte, con le auto blu, e lui si vergognò di questo, io penso che arrivando al governo la prima cosa da fare è farsi approvare dal Parlamento prima una revisione di questo Parlamento, di tutti quanti questi privilegi, e poi passare a quello che ha fatto? Non sarebbe passata la storia? Beh, diciamo che non era facile scardinare la politica, anche perché poi Monti era sostenuto dai partiti, per cui è vero che è stato fatto poco, è vero che è stato fatto poco per i costi della politica, niente, molto poco. Neanche le province adesso rischiano di saltare un'altra vergogna, ma questo rischia di saltare. Ma no, perché c'è la fine, perché c'è la fine anticipata della legislatura, comunque. Ma però queste sono cose che doveva fare prima Monti. Sì, assolutamente, io sono d'accordo con lei. Questo doveva farli prima, cioè bisognava fare tutto e subito. Bisognava fare tutto e subito. Sì, ma prima le cose mesi. Scomode al Parlamento e poi le cose più comode a dare dopo. Nel periodo della luna di miele bisognava bastonare duro, bisognava andarci giù, questo è il punto. Perché adesso voi, ma adesso come te le immagini una lista Monti, Montezemolo, Casini? Sì. Questi tre, salvo altri, hanno mai preso un autobus? Ma quello che c'entra? Ma come che c'entra? Cioè, ma nemmeno Berlusconi ha mai preso il treno dei pendolari, che vuol dire? Ma che significa? Però Berlusconi forse sta più in mezzo alla gente, può darsi. Anche se non ci sa. Ma non c'è dubbio che sia un leader, diciamo, che sente più gli umori del popolo. Però il problema è un altro. Adesso non è che è legittimato a governare solamente chi ha preso un treno per dei pendolari oppure chi ha preso un autobus. Su. Romano, grazie. Giuseppe, dalla provincia di Caltanissetta. Grazie Giuseppe, grazie mille, grazie, arrivederci. Provincia di Caltanissetta. Pronto, eccomi. Vada. Sì, e volevo dire buonasera anzitutto. Siccome voi siete molto bravi, l'episodio di Emilio Fede lo testimonia, a far risaltare i lati comici delle persone, non so, ci avete provato stasera pure con Borghezzi, eccetera, no? Ma perché Mario Monti, che dappertutto dice io sono il più bravo, io sono il numero uno, io sono professore e rettore? Veramente, Valtieri, veramente non ha mai non è che si sia mai autoesaltato, insomma, in questo modo in cui dice lei. Ha fatto una conferenza, l'abbiamo visto io, mia moglie e i miei amici, ha detto minimo 5 volte consecutive: io sono stato professore ma anche un rettore, io sono stato professore ma anche un rettore. Allora? Sa come dicono a Roma quando uno parla così? Come dicono? Lo sa, a sti cazzi. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Mi ha beccato, mi ha beccato. Ecco, io mi sto arrabbiando. Mi sto arrabbiando seriamente, perché io non riesco più. Abbiamo una battaglia, abbiamo una guerra da qui alle elezioni. Sarà una guerra, ma finché la guerra me la fanno i giornali, le televisioni, i nemici, quelli veri, va bene. Ma io guerra dentro non ne voglio più. Se c'è qualcuno che reputa che io non sia democratico, che Casaleggio si tenga i soldi, che io sia disonesto, prende e va fuori dalle palle. Se ne va dal movimento e se ne andrà dal movimento. Hai capito? Sì, chi è questo deputato europeo del PDL? Questo deputato europeo del PDL che tra l'altro toscano. Ci ha detto toscano, che tra l'altro ci ha detto, ripeto, ci ha detto che è d'accordo con Mario Mauro, capogruppo del PDL al Parlamento europeo, quando dice che Berlusconi è inadeguato. Chi è? Ma non è l'unico, perché ci sarà domenica, come tu sai, ci sarà questa manifestazione con Crosetto, Giorgia Meloni e tanti altri che faranno sentire la loro voce, quindi non è l'unico, è un caso. Perché lui dice va, perché no, lui è lì a Milano, non so se nella sua torre Seburnia, circondato da cameriere e da ricchezza, e quindi non gira il paese, non guarda, non ascolta, sta lì chiuso a Radio 24 in quel bellissimo edificio. Mi fai sentire questo signore parlamentare europeo del PDL fiorentino invece di starnazzare? A forza di parlare alla pancia del paese ci troveremo il culo per terra. E il culo per terra era riferito forse agli italiani e forse anche a Berlusconi, eh? Risentiamo un po'. A forza di parlare alla pancia del paese ci troveremo il culo per terra. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Mañana yo soy stanco como una muchachita, baila col ritmo bueno. Siete delle merde! Porta mucho, si no prendo sueno. Non le importa mucho, si no prendo. Gaspare da Milano. Volevo dirti questo. Dimmi. Sì, buonasera. Adesso sono in taxi, un sta attimo, per andare Gaspare. Via la linea. Dimmi. Sta per andare via la linea, sono in taxi. Ma nella macchina vicino dove abbiamo accostato alla mia, sì, c'è un signore dentro la macchina, sì, e la stazione indica Radio 24 La Zanzara. Ed è, devo dire, una sensazione bellissima. Io in macchina, parallelo a quell'altra, dentro l'altra macchina, sì, vedere questo e vedere questo guidatore anziano, piuttosto bruttino, che però ride a crepapelle. È bello. E qui dici proprio nella macchina attaccata alla mia. Non so se sono riuscito a descrivere questa situazione. I racconti di Parenzo. Bah. Gaspare, allora... Sì, buonasera a tutti i telespettatori. Io volevo semplicemente dire che sono d'accordo con Borghezio quando dice che Monti non ha dato nessuna produttività all'Italia, non ha portato nessun vantaggio, la pressione fiscale ci sta uccidendo, c'è bisogno di soldi, beh, aumento la benzina, ha prodotto esodati, poi alla fine ci ha lasciato anche l'IMO, ci ha dato l'IMO che ha tassato moltissimo la piccola proprietà, quindi io non riesco a cogliere il vantaggio che ha portato Monti, cioè anche i bambini mi servono soldi e aumento la benzina, adesso metto l'IMO. Ma che vuol dire? Questo vuol dire trovare le soluzioni a un paese che un anno fa ovviamente c'erano grossi problemi, va bene, ok, ma queste sono le soluzioni per uscire dai problemi, voglio dire. E le aziende chiudono per la forte pressione fiscale, i lavoratori sono allo stretto. Non capisco io Monti cosa ci ha portato. Cioè... Va bene, grazie. Carlo da Mantova, buonasera. Carlo, mi sente? No, Alessandra da Modena. C'è o non c'è Carlo? Non c'è. Alessandra da Modena, su. Alessandra? Vabbè, Franco da Pescara, avanti. Andiamo a tentativi. Buonasera, Cruciani. Buonasera, dica. Ascolti, io volevo fare con voi un ragionamento di questo genere. Sì. Se è vero che i sondaggi hanno un valore e il partito che rappresenterebbe Berlusconi ha stimato intorno al 15%, quindi la migliore delle ipotesi sarebbe una minoranza all'interno della compagine parlamentare, non riesco a spiegarmi cosa c'entri lo spread che è oscillato ieri sullo spauracchio di Berlusconi. Allora? Quindi, allora, secondo me mi verrebbe da... Professore? Pensare... Chi è? Cruciani, Parenzo, ciao, come stai? Uè, a quest'ora mi chiamate? Lo so, abbiamo fatto tardi. Che dobbiamo fare? Abbiamo fatto tardi. Professore... Come sta, professore? Bene, bene, bene. Ma com'è... mi sento bene. Com'è questa storia che staresti trattando uno sconto di pena per Fiorito in cambio della restituzione dei soldi? Ma io la notizia la ritengo, diciamo così, è vera, professore, tu. La ritengo, come dire, un po' troppo arrembante. Ma che arrembante, su, dai. Fiorito sarebbe pronto a restituire una parte dei soldi in cambio di uno sconto di pena. Mica sarebbe una brutta cosa. Ma ho capito, ma scusa, ma se uno i soldi, se uno i soldi li ha sottratti, ma li deve restituire, che c'entra lo scambio con lo sconto di pena? Ma che c'entra? Il risarcimento del danno costituisce una attenuante e quindi incide sulla pena, capito? Ho capito. Questo è il problema. Ma questi soldi dove sono? Bisogna essere giuristi, bisogna essere. Infatti io non lo sono giurista, non lo so. Capito. Comunque è possibile questo scambio, è possibile. È possibile questo scambio. Sarebbe auspicabile, anzi. Sarebbe auspicabile perché sarebbe un modo attraverso il quale il danno arrecato all'ente pubblico troverebbe un suo soddisfacimento e anche Fiorito dimostrerebbe di essere persona, diciamo, in qualche modo convinta di avere commesso degli errori, ma il problema più importante è che fino a quando tutti quegli altri che hanno rubato continuano a farlo, anche in questo momento mentre stiamo parlando noi alla Zanzara, tutti stanno rubando, perché in questo momento tutti i gruppi continuano a prendere i soldi e tutti i gruppi continuano ad avere vantaggi economici che non comprendono. Scusa, quanto dovrebbe restituire anzitutto? Dunque dovrebbe restituire circa 1.300.000 euro per avere questo sconto di pena? No, molti sono già stati sequestrati di soldi, circa 990.000 euro sono stati sequestrati, per cui dovrebbe restituire per avere lo sconto di pena quanto? Dovrebbe circa 350.000 euro. Ma ce li ha sti soldi? Beh, dovrà vendere qualche gioiello, naturalmente. Cioè, tipo cosa? Beh, no, un'abitazione, no? Un'abitazione. Ah, dovrà vendere qualche abitazione. Ma ti ha pagato la parcella, almeno? La parcella l'ha pagata, almeno, no? Questo è un discorso che non merita questa attenzione pubblica. Ma come no? Merita. Come non merita? Ma è importante, no. È importante che lei sia pagato, avvocato, sennò... Ma è fondamentale. Beh, altrimenti... Però, insomma, la mia difesa di Fiorito, tenuto conto anche di questa svolta che voi avete preannunciato, anche se è soltanto ancora una procedura in itinere, sì. Ecco, mi fa dire di averlo... Quando potrebbe uscire dal carcere? Di averlo difeso volentieri, perché è un cittadino che si è rimesso in ordine con la giustizia. Ma quando potrebbe uscire dal carcere, innanzitutto? Ma anche fra qualche giorno potrebbe dare. Ah, fra qualche giorno, Sì. Ma in che condizioni è? Buone, condizioni buone. Dimagrito? Persona... Dimagrito, no? No, un po', ma niente di particolare, insomma. Niente di particolare, cioè è stato bene in carcere alla fine? Ricorda sempre voi, beh, oddio, se vuoi provare possiamo... No, per carità, ma scusi, ma il servizio pubblico l'ha pizzicata sulla questione della scorta, ho sentito l'altra volta. Pizzicata? Io ho una scorta la quale mi è stata... assegnata e viene periodicamente controllata dagli organi competenti, e basta. Ma sa, io... Ma come mai ancora la scorta? Cruciani, io ho avuto casa bruciata, minacce di morte, anche recentemente un clan camorristico mi va ricercando in continuo. Certo, questa è la situazione. E allora com'è che sono andato a rompere le scatole sulla scorta? Scusi, a me mi rompo le scatole tutti, meno che voi, insomma. Quelli di servizio pubblico si è avvicinato. È certo che ho la scorta, perché devo rinunziare? Lei giustamente è... Perché mi devo far ammazzare? Fatemi capire. Hai capito, Parezzo? Ha ragione. Non rinuncia quindi alla scorta. Perché devo rinunciare? Scusate, ma perché devo... Ma devo... manco per niente. Certo. Sono uno che paga regolarmente le tasse, sono uno che faccio il cittadino onesto, faccio il cittadino onesto. Non ho capito per quale ragione lo Stato, nei momenti in cui la mia persona è in pericolo, non debba pensarci. Cioè non è uno spreco la scorta? Assolutamente no, la mia no sicuramente. No, lei di qualcun altro, lei è veramente minacciato? Beh, purtroppo sì. Scusi, però mi dica la verità, quante volte è stato a trovare Fiorito in carcere? Tante volte. Sì, tante volte, perché abbiamo avuto molti problemi da affrontare, prendere delle decisioni. Però qualche giorno potrebbe uscire, Tra qualche giorno potrebbe uscire e lo mandiamo alla Zanzara. Un abbraccio, a presto. Magnifico. A presto per lei. Arrivederci a David Parenzo. Cari Salute. Ascoltatori, ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siete delle merde! Radio 24. La passione si sente.